Per venire incontro alle vostre esigenze politiche, questa stagione di OGM andrà in onda in forma littoria, ma gli studi diversamente dislocati della radio Corritempo, distanza nei territori limitrofi di Roma, la gloriosa capitale d'Italia, allieta le vostre orecchie il sottoscritto, il vostro umile Marco Gualdi. E invece dalle soleggiate e fertili terre del sud, che affacciano verso l'Adriatico e lo Ionio e sbeffeggiano il vile Eleno, il prode cameratta Carmine Puccio Console. E chiude il trittico, sospinto da italico patriottismo e ardimentoso spirito, il cameratta Gualtiero Sbano. Sì, ciao, buonasera e bentrovati, bello tutto, però volevo dire che le elezioni sono domenica prossima. Ah sì? Eh sì. Ah, quindi abbiamo ancora una settimana di... vaffanculo, fasci de merda. Dicla. E andiamocene così. No, scherzo, non ce ne andiamo. Ragazzi, siamo appena arrivati. Bentrovati, buonasera, bentrovati a tutti voi che ci state già ascoltando. Prima di salutare i sodali che ha già introdotto Marco, ricordiamo il brano della settimana, il primo brano della settimana di questa stagione invernale, di questo pret-à-porter autunno-inverno 2022-2023 di Runtime Radio. Loro erano le Shoes e il brano era Converse, come le scarpe più puzzose. No, per carità, il brano bellissimo, però provate a indossare le Converse e a toglierle dopo un paio d'ore di passeggiata e... E salutiamo i primi che ci hanno raggiunto in chat. Prima della diretta si interrogava sul palinsesto la nostra Deborah, che probabilmente poi è andata a cena, non lo so, comunque la salutiamo. Salutiamo il nostro Peppe Rizzard e il nostro Luca S, che sono indefessi e immancabili. Ragazzi, buonasera, bentrovati, siamo carichi? A pallettoni, guarda. No, non si può essere, cioè bisogna sempre andare con la sicura tirata e con l'essenza del colpo in canna. Essere pazzi, cioè non si può. Cioè disarmati praticamente, sì. Di fatto sì, disarmati. No. Sì, puoi soltanto agire in legittima difesa e basta. Ora che estrai l'arma, ora che la carichi, ora che intimi, sei morto tre volte, è legittima morte, non è legittima difesa. Vabbè, cioè, adesso mi stai dicendo che Salvini c'ha ragione, quindi. Vabbè. Parliamo già di fantascienza. Salvini ha ragione, oltre la fantascienza. Sono più preoccupato dell'horror. Fantasy quello comunque. Ragazzi, vabbè, comunque prima di, come dire, introdurci verso il roseo futuro che all'orizzonte si prospetta, noi ci siamo, come avete capito... No, basta, diciamola tutta. Diciamo. Allora, noi in realtà volevamo cominciare il primo di ottobre. Sì. Però ho detto, va, sai che c'è, cominciamo un po' prima, così almeno una settimana ce la facciamo. Sì, perché c'è il rischio. Questa potrebbe essere forse l'ultima, no, ma potrebbe essere la penultima puntata di OGM. Allora, io l'ho premesso oggi nei messaggi nella nostra chat diretta Runtime Radio su Telegram, per chi non lo sapesse stesse ascoltando il podcast. Potete interagire con noi in diretta sulla nostra chat Telegram diretta Runtime Radio. Ed oggi ho lanciato il teaser del programma dicendo che questa potrebbe essere l'ultima puntata di OGM per come lo conoscete. I motivi possono essere svariati. Settimana prossima saremo reduci dalle elezioni, si staranno facendo i conteggi. Io non lo so se lunedì prossimo... O saremo in galera. Magari martedì o mercoledì, diciamo. Ecco, lunedì sera magari ancora facciamo in tempo da assaltare. No, ma sono quella un paio di settimane di insediamento, cioè non è... Sì, che sì. Per far vedere che sono morbidi e come dire ragionevoli. La consegna ufficiale non è immediata, quindi ci vuole qualche giorno. Certo, quindi certo. Però diciamo, ce la possiamo sfangare, insomma. Forse settembre ce la passiamo. Diciamo sì. Però, io non so, lunedì probabilmente saremo in onda, probabilmente parleremo specificamente di politica o addirittura faremo una sorta di speciale perché staremo vivendo le ore di fibrillazione per l'annuncio. Come lontano. Sì, tra l'altro. Visto che non abbiamo Mentana, potremmo farla a Mentana. Guarda, sì, credo che questa cosa l'abbiamo già detta, la famosa maratona a Mentana che noi facciamo al posto di... Esatto, sì. Sì, potremmo organizzarla. Potremmo farla finalmente. Sì. Aspetta, che distanza c'è tra Monterotondo e Mentana? Perdonate la mia assurdità. 2 chilometri? Okay. Sono limitrofe. Per fare la maratona a Mentana devi fare 20 volte avanti e dietro tra Monterotondo e Mentana. No, parecchie, sì. No, considera che poi è storico il conflitto che c'è tra le due popolazioni limitrofe, tant'è che su Via Nomentana, proprio al punto di intersezione dove c'è lo confino tra Eretum e Nomentum, si incontravano per darsele di santa ragione i rispettivi cittadini. Capisco, insomma. Perfettamente, anche noi putignanesi viviamo un rapporto conflittuale con gli abitanti di Noce. Cioè ci sono stati sindaci che hanno proposto in campagna elettorale di alzare il muro tra le due città in modo da dividerci fisicamente, quindi. No, tra i montrotondesi o eretini, che dir si voglia, e i mentanesi, i nomentani, i nomentini, c'è questa simpatica usanza di rubarsi reliquie e poi ovviamente incontrarsi appunto in questo luogo di confine per lo scambio e le rispettive restituzioni e poi darsele. È famosissima la diatriba, il modo di dire Mentaneri dacce Lucatenaccio, Montorotonneri dacce Lussu, perché i montorondesi avrebbero rubato dal reliquiario di Garibaldi un osso, mentre in risposta un dito, forse. Sì, infatti, in risposta è medio. Sì. In risposta invece i mentanesi avrebbero rubato questa catena di un monumento, cos'è il monumento ai caduti? Comunque un monumento forse eretino, della porta storica d'ingresso, non lo so. Vabbè, morale della favola, insomma, se le dicevano, se le promettevano e se le davano pure. Vabbè, però insomma chiudiamo questo folklore fin troppo locale, perché dobbiamo essere molto più cosmopoliti, dobbiamo interessare tutta la fascia di ascoltatori che, ricordiamo, va da Trieste in giù. Hai detto fascia, comunque io non vorrei di niente. Lo so, ragazzi, mi sto abituando. Dobbiamo essere geolocal, quindi. Dobbiamo essere glocali, come diceva glocali. La battuta di un film di qualche anno fa. Comunque, ragazzi, ma do che ansia, io non vorrei neanche ripercorrere quest'estate per molti versi, perché a un certo punto, quello che è successo è che un politico in particolar modo si è svegliato una mattina e ha deciso di far... Vabbè, in realtà non è che abbia deciso di far cadere il governo. Allora, di questo dobbiamo parlare un attimo, aspetta. Allora, buttiamo fuori. Perché in realtà, poi parliamo di politica, però questa cosa introduciamola, poi magari vediamo se voi la sapete anche spiegare meglio di me. Perché di fatto questo governo è caduto pur avendo la maggioranza. Questa cosa va un attimo spiegata. Ovviamente c'è una scuola di pensiero secondo la quale Conte ha fatto cadere il governo, ma era chiaro a tutti che nel momento in cui questo motivo di contrasto tra il Movimento 5 Stelle e il Presidente del Consiglio Draghi si è manifestato in tutta la sua iulenza, bastava chiedere il voto di fiducia e Draghi la maggioranza ce l'aveva, giusto? Se l'avessero votata tutti, sì, sulla carta formalmente sì, il problema è che qualcuno ha cominciato a traccheggiare. Non sappiamo se voteremo la fiducia, sì e no, vediamo, esatto. Siccome Draghi non è che sta lì, diciamo, su mandato di nessun partito, è semplicemente stato chiamato come vengono chiamati i presidenti del Consiglio nei governi tecnici, non ha ritenuto di proseguire. Ok, quindi sostanzialmente... Quindi la prima volta che è andato sotto ha detto, ok. Tu sai che c'è, me la so vista, ho capito l'andazzo, ho capito che inverno ci aspetterà, ho capito che io volevo fare il salto al Quirinale, non me la fanno fatto fare, cioè, sapete che c'è? Adesso, cari miei, vaffanculo, perché cioè, di fatto, diciamo così, è riuscito a fare una fuga onorevole senza farsi dare addosso, perché di fatto chiudiamo la situazione, chiudiamola tutta la discussione, che già abbiamo parlato troppo di queste cose. È colpa di Renzi, punto, cioè basta, sempre colpa di Renzi, sempre e comunque. Io ci sto a questa chiave di lettura. Intanto Peppe dice: Draghi mica stava lì a pettinare Mojito. Effettivamente, diciamo che Draghi lo vedo più un tipo, non lo so, da Sauvignon, da... non lo so, cosa beve Draghi secondo voi? In realtà credo che condividiamo il vizio dell'astemia, se ho letto bene. Mamma mia, che schifezza, vabbè. Ma l'astemia è quella, diciamo, a singhiozzo. La scemia? Che è l'astemia che ogni tanto va singhiozza, niente si fa, niente no, funziona però, dai. Insomma, no, perché io sono astemi a singhiozzo, insomma. Sì, tra una birra e l'altra non bevi. Tra una serata e l'altra non bevo, insomma. Come dice Peppe, la iastemia, che qua è proprio una crasi, vabbè, qui andiamo proprio, stiamo creando nuove lingue in un certo senso. Comunque, vabbè, la ragazzi, neolingua rantaimiana. La neolingua, esatto, che poi qui continuiamo a collegare puntini che ci portano verso l'inevitabile, verso l'ineludibilità della prossima verso settimana. Verso l'anno di uscita di Ghostbusters, verso il 1984. Mamma mia, esatto, e non soltanto quello. Ma a proposito di uscita, ragazzi, questo non è un programma videoludico di Rantaim Radio, però una piccola chiosa, un piccolo messaggino... Lo vogliamo dare? Però stiamo giocando a Monkey Island. E non uno qualunque, perché esatto. Oggi alle 18 è stato sbloccato il download su Steam di Return to Monkey Island. E io, Puccio, ma suppongo anche tanti altri, immagino la nostra Pixel Deb, magari il nostro Carlo Sant'Agostino e voglio immaginare tanti altri... che sono anche Simone sta, non lo dice a nessuno, gli sta giocando anche qui. No, io e Simone abbiamo avuto una chat privatissima e no, non ci sta giocando. Comunque sta raccogliendo dei pareri. Esatto. Io credo che sarà oggetto di trasmissioni più specifiche, non so se dedicate, vedremo, insomma non è che vogliamo stare sempre a ricordare, a parlare di Monkey Island. Secondo me però... Simone sta aspettando il mod che rimette la grafica pixel la pizza. Perché potrebbe arrivare, intanto uscirà . Guarda, io vi dico questo, è presto per ci ho giocato mezz'ora, è presto per trarre delle considerazioni e delle conclusioni, però vi dico che a questa nuova grafica ci si abitua subito, perché aiuta molto il fatto di ritrovare tante cose familiari che sono proprio a livello di atmosfera, la musica, il doppiatore originale di Guybrush Threepwood nella sua voce in inglese, ovviamente, e quindi e poi anche dei luoghi, delle consuetudini di Monkey Island fin da subito, quindi diciamo che in un certo modo la familiarità che speravo, insomma, stai dicendo che è tutto un riciclare di roba vecchia, no, anzi, però è anche carino come hanno ricollegato direttamente questo Monkey Island al finale di Monkey Island 2. Non dico nient'altro, ripeto. No, io sono limitato a fare un'osservazione su Facebook che non dice niente. How I Met Your Monkey. Esatto, How I Met Your Monkey. L'ho guardato e ho detto ok. Va bene, ci sta. Vabbè, comunque ragazzi, se vi dovesse interessare, è disponibile da oggi su Steam, costa 23 euro, è disponibile anche su Nintendo Switch. Non so e non mi risulta. Con il vantaggio che ci potete giocare in bagno sulla Nintendo Switch, io mi sto pentendo di averlo preso su PC, perché poi ho fatto questa riflessione dopo l'acquisto. Ho fatto, la prendevo su Switch, me lo potevo portare in bagno, ci potevo giocare a letto. Però mi togli una curiosità, la Switch è touchscreen? Cioè, lo domando perché... è full touchscreen. Ok, perché sì. Un punto e clicca come questo, giocato con la croce direzionale, i tasti. No, lo puoi fare sicuramente con i controller, è comunque è fattibile, però ti devo dire, ci ho provato altre avventure punta e clicca sulla Switch, è comodo, ci devi fare un po' la mano, devi capire, la Switch poi c'ha il rilevatore di pressione sullo schermo, quindi poi a seconda di come tocchi ti compaiono determinati menu, dai, è carino. No, per carità, poi... Diciamo, sono affezionato alle meccaniche. Ho provato Thimbleweed Park sulla Switch. Okay, non mi sono ricordato. Okay. Quindi c'è anche un diretto. Cioè, il fratello, esatto, sì. Una papà relazione. Esatto. Comunque, questo nuovo sistema di controllo che doveva in qualche modo impressionarci per attualità, finora non mi sembra niente di nuovo, però magari è troppo presto per dirlo. Però insomma, l'ho trovato familiare, questa familiarità, questo non bisogno di dover assimilare nuove meccaniche di interazione, a me non è dispiaciuto. Poi c'è anche un modo, insomma, carino per farti fare una sorta di tutorial all'inizio. Vabbè ragazzi, ne parleremo in altri momenti, in altri contesti, anche perché è uscito veramente alle 18 di oggi, quindi qualunque cosa è spoiler, quindi... Buon divertimento se vorrete giocarci. Abbiamo 2 ore d'autonomia, ragazzi. Alla fine lui muore, sappiatelo. Cosa? Scusami, Marco. Alla fine lui muore. Probabile, sai, sarebbe pure ora, insomma. Beh, LeChuck muore spesso. Beh, sì. Lui, sì. Oh, ragazzi, però, scusatemi. Allora, a proposito di morte, io volevo provare a fare una cosa. Adesso io ci provo perché... è proprio un esperimento in diretta, non lo anticipo. Se funziona, se ci risponde, parliamo, se no magari ci riproviamo più tardi, vediamo, eh. Paura di questa cosa, lo sai, sì. Vediamo che succede. Sento silenzio. Però squilla. Aspetta. Pronto? Ma sta? Questo lo riconosco. Ecco. Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Ragazzi, Sua Maestà ci sente? Ci sente? Come sta, Sua Maestà? Disturbiamo anzitutto? No, fa piacere che mi sento un pochino lonely. Maestà? Mi sente? Pronti? Sì, diceva, si sente un po' sola. Come mai? Sto qua, tutto wrapped the legno intorno, ma non chiuso qua. Secondo me, ma era successo che io avevo fatto una serata bella, ben impegnativa con tante gente lì in Scozia, ma non so, ho usato un pochino, come si dice, di gomito. Sì? Ho usato un pochino di gomito e ho fatto tipo the hangover, come un film, la notte da ricciogni, come si chiama là? Sì, sì, qua, quasi, sì, sì, una notte da leoni, sì. Ok. E quindi... Then I woke up, I'm inside the coffin, you're just dentro tipo un bar, un armadio, no, non lo so. Ma no, un attimo, allora qua, qui dobbiamo mandare... Non riesco più a uscire, Maestà, dobbiamo mandare i soccorsi, però dobbiamo riuscire a dare qualche elemento... Maestà. Così non ci aiuta, l'altezza non ci aiuta così. Marco cerca di capire dov'è, così there is no line here. Scusi altezza, ci dia qualche indizio, dove si trova adesso? C'è ci sarà l'interruttore della luce lì accanto, ci sarà la regale abat-jour sulla reale baldacchino, no? Ma bello stretto qua, non so perché, boh. Perché altezza sono circolate delle voci, che dicevano che lei non stesse proprio benissimo. Ma io sto meglio di mamma, ma che cazzo ne sai tu? Io infatti non lo so, infatti per questo abbiamo chiamato, per sapere. Oh my God. Ma Carlo, chissà che cavolo sto facendo, Carlo. È meglio che non le diciamo che sta facendo. No, c'è un numero di everything. Let me know Ragazzi, qua Altezza, ce l'ha un numero di emergenza da chiamare? Dobbiamo chiamare i carabiniers qui, come minimo. Sennò... Mi sta finendo batteria, però provo a chiamare un attimo. Oppure... Aspettate, se no potete fare così, provate a... Niente, ragazzi, è caduta la linea. No, questo non me l'aspettavo. Io sapevo che era tranquilla nella sua cameretta a guardare la televisione. Non avevo capito che c'erano stati questi imprevisti. Adesso cercheremo di mandare dei soccorsi e cercheremo di fare in modo di trarla in salvo nel minor tempo possibile. E dobbiamo un attimo organizzare qualcosa, perché vedo che la stavano portando in giro oggi, cioè non vorrei che magari poi è troppo tardi, insomma. Io spero che venga. Cercheremo di informarci. Adesso la redazione si muoverà, farà un po' di un giro di telefonate, qualcosa, insomma, cercheremo di capire. Chiameremo Dylan Dog probabilmente, o anche l'ispettore Block o Grucio direttamente, forse ancora meglio. Però ragazzi, Block è in pensione, ricordiamoci. Sentiamo Block che è andato in pensione. No, ma io guarda, sono rimasto il Dylan Dog classico, quindi non no, esatto, non ho queste informazioni dell'ultima ora. Volevo dire, io questa sera faccio una prova, poi se ci piace continuiamo così anche le puntate successive. Intanto dice Peppe Rizzard che la maestà è Ita con tutta la trasmissione. In che senso? Non dateci questi messaggi contraddittori che poi ci portano a dover controllare che cosa sta succedendo sulla diretta. A me pare che forse dovremmo richiamarla. Prova a richiamarla. No, proviamo a richiamare la sua maestà un attimo, d'accordo? Un attimo. Magari lì non prendeva bene, sa, perché sta in giro, quindi vediamo. Vodafone, messaggio gratuito. Chiudo, sì, perché sì, però è Vodafone English. No, niente, forse gli è scaricata la batteria, secondo me. Sì, probabilmente è finita la batteria, ma l'aveva detto. Soltanto che nel frattempo mi stanno dicendo che c'è del silenzio, questo è bizzarro. Ho rimasto bloccato il mixer, perché questo davvero... Al nord-est dicono che è tutto ok. Ah, vabbè, allora i millantatori dalla calda Sicilia. Va bene, dicevo ragazzi, allora, io voglio provare a reintrodurre, perché le prime stagioni di OGM le pause le facevamo, delle pause musicali. Allora, oggi ho cercato un paio di chicche, vediamo che... Ho detto... Cosa ci porti? Giovinezza? Sì, per favore, va via. Nera. No, quello poi magari un'altra volta. Buster, no. Io te l'ho detto che dobbiamo buttarci anche da quella parte, dobbiamo cercare di fare breccia anche da quella parte, perché insomma questi tempi non si sa un mai. Un po' alla volta ci organizziamo con un palinsesto musicale dal Voce del Padrone, conosci la famosa etichetta. Dice Peppe Rizzardi intanto che a sud-est siamo stati intermittenti, lui adesso c'ha la fibra 1 giga, guarda il risultato. Vabbè ragazzi, comunque facciamo la prima pausa musicale di oggi. Il tema di oggi è settembre, questo morboso settembre che vorremmo esserci già messi, come dire, alle spalle. Oggi inizio veramente con qualcosa di un pochino più ricercato, poi vediamo che succede. Ma la facciamo andare in sottofondo, volevo solo avere forse l'ultima occasione per questa radio, per l'emittenza e per tutti quanti di poter proporre dei brani e dei gruppi come la PFM, la premiata Forneria Marconi, che immagino verranno banditi dalle italiche classifiche già a partire dalla prossima settimana, quindi così vogliamo ricordare un'Italia che non ci sarà più. Che depressione ragazzi, che depressione, ma è colpa di questo brano, lo devo dire, perché cercavo dei temi di settembre ma non è che ho trovato moltissimo, poi ce n'è uno un pochino più punk. Intanto salutiamo anche Simone Pizzi, ragazzi. Non sta giocando a Monkey Island? No, sta già siamo, già siamo in due, insomma. Ma Gualdi, tu cuoque? Io non ho mai giocato a Monkey Island, cioè ho giocato diverse volte a Monkey Island 1 e non l'ho mai finito, per cui... Vabbè, però hai guardato i film, quindi lo sai come lo finisco. No, non ho guardato neanche i film io. Africa. Tu dici quello di Spadoni, giusto? Big Swords, dici? È perché ce ne Big sono Swords, altri. Sì. Big Swords. Big Swords, come lo dite bene, ragazzi. La regina sarebbe fiera di voi se non fosse che le si è scaricata la batteria, quindi niente. Allora, tutti metaforicamente parlando. Quindi. Sì. Vabbè, magari ragazzi, adesso la ricarica. Ma raccontatemi qualcosa di questa vostra estate, dai. Cosa? E ovviamente Simone Pizzi, che ci ha raggiunto, puntualizza: Monkey Island deve morire. Non avevamo dubbi che l'avrebbe pensato. E, vabbè, Parliamo della vostra estate, tanto veramente per parlare di Monkey Island ci saranno occasioni, ci saranno possibilità, ci saranno programmi. Beh, quindi, la vostra estate? Che dire, io ho lavorato. Per non smentirti mai, insomma. Per non smentirmi, esattamente. Che schifo. Che schifo, davvero. Vabbè, in realtà pure io ho lavorato di concetto, ragazzi, ho imparato a mettere il pavimento laminato, poi magari... Abbiamo ammirato le foto. Lo so. Stato... Guarda, gli autori di Tetris sarebbero orgogliosi di te, veramente. Grazie. Il lavoraccio è infame, devo dire, a modo suo, perché quando hai le... Ecco perché si fanno pagare mortacci loro. Capito, per no, perché poi quando hai le ginocchia non esattamente da ventenne comincia a essere sali, scendi, siediti, drizzate, sali, vai, insomma... diciamo che è stata una discreta palestra per questo. Tra l'altro faceva un caldo becco perché fatto tutto a fine agosto, quindi vi lascio immaginare. Con l'aiuto di un amico, Roberto, che saluto e ringrazio, perché veramente queste cose farle da soli, cioè diventi matto, un due è già una svolta. Però insomma, decisamente faticoso. Voi altri invece, per esempio, vabbè, lavorare canonicamente, immaginiamo che non ci siano differenze dal solito, ma qualcosa di diverso, qualcosa di originale, non lo so. Beh, insomma, innanzitutto, Walter, tu dovresti sapere bene che so che c'eli bene questo dramma che, insomma, che ha colpito la nazione, insomma, c'è stata questa grossa inondazione che abbiamo visto, insomma, nei luoghi umbri, a Cantiano, anche Cantiano, ricordiamo, Marchigiani, che umbrio. Marchigiani, pardon. Solo 20 minuti da dove alloggiavo normalmente. Walter, io sono ancora scosso da questa cosa. Certo, perché io e te siamo vivi per miracolo. Per miracolo, perché a Cantiano siamo stati giusto a metà agosto. Bastava un mese prima. Abbiamo scampato questa terribile, terribile cosa. Insomma, poverini, insomma, ci sono state anche delle vittime. Quindi facciamo noi un augurio ai cantianesi. Comunque, allora, posso dire una cosa, Marco? Devo fare una confessione, perché adesso veramente mi sento tanto in colpa, perché quando il sabato sera siamo andati a Cantiano al pub, ci siamo seduti e la cameriera ci ha detto non abbiamo più la Guinness, io li ho maledetti e... No, è colpa tua. Appunto, io mi sento tanto in colpa. A saperlo non mi sarei lamentato, perché poi ci hanno portato un bel fritto carichissimo, ci hanno portato un panino col pastrami molto buono, e non pensavo che solo perché mi ero un po' rattristato e rabbuiato per la mancanza della Guinness poi sarebbe successo la Disney. La Disney è un mostro che potrebbe nascere in futuro se la Guinness acquista la Disney o la Disney acquista la Guinness. Per cui è più facile la seconda per proporzioni, insomma. Però, comunque, vabbè. No, seriamente facciamo gli auguri a tutti quanti, no. Non so se si dice cantianesi, ma tutti gli abitanti delle zone, adesso lo dico seriamente, travolte da questa devastazione per le esondazioni del fiume, adesso non ricordo il nome del fiume che ha fatto questi danni, forse insomma, il Misa probabilmente sì, e seriamente noi eravamo lì in vacanza, sapete che la località segreta dove c'è il convento del priore è effettivamente, non possiamo essere più precisi di così, però diciamo nel raggio di 20 minuti di macchina da Cantiano, che è uno dei borghi maggiormente distrutti, colpiti da questa alluvione. E quindi insomma, amici marchigiani, approfittando anche per salutare il nostro Leo Vargheon e la nostra famiglia Vannini, entrambe non colpite direttamente da questo caos, per fortuna di entrambi, che però insomma approfittiamo per salutare. E, insomma, amici marchigiani in generale, forza e coraggio, siamo con voi. Però devo dire che, visto che parliamo di questa piccola breve vacanza a ridosso di Ferragosto, ragazzi, io e Marco in quei giorni abbiamo scoperto lo sport del futuro. Slap Conte, come si chiama? La gara dei schiaffi. La gara dei schiaffi in faccia. La gara dei schiaffi in faccia, ragazzi, ed è qualche cosa, credo che sia uno sport che ha una dignità tale che potrebbe, anche in un paese come l'Italia, proprio farci dimenticare il calcio, il pallone. Ma perché il pallone quando te puoi prendere a pizze? Esatto, quando potresti prendere a pizze la persona che ti sta più sui coglioni e nessuno ti direbbe niente. Esatto, e magari ci becchi pure qualche soldo. Esatto, esatto. Un momento. Perché sicuro infatti questo sport... qualche schiaffo, però. Come? È possibile, vabbè, certo. Fa parte del gioco. Esatto. Diciamo, l'importante è darla più forte che puoi, in modo da farlo, cioè da non prendere meno due, cioè così. Sì, noi ricordiamo comunque, che chi mena per primo meno due volte, questo è importante. Meno due volte, anche soprattutto in questo sport, chi mena per primo meno due volte, quello è assolutamente vero. Però in questo sport c'è anche del fair play, per cui se va il campione universale di schiaffo in faccia, che ricordiamo abbatte i cocomeri con una manata, e se arriva il ragazzetto che ci prova, lui comunque sì, lo atterra, ma non gli strappa la testa, insomma. Cioè, tranne che è comunque un tocco tra virgolette gentile. Certo, se ti presenti tutto quanto tatuato con la sclera dell'occhio tatuato, con tutti i cosi, i piercing, e provi a far, cioè sei un terzo di lui e provi a dargli una mano, una manata fatta male, tra l'altro sull'orecchio, che insomma non è proprio il massimo, lui ti si rigira un attimo e ti toglie tutti i tatuati, diciamo tutto l'inchiostro te lo toglie con un ceffone, insomma, ma anche giusto, insomma, in grande amicizia. No, ma sì, poi anche con tristezza. Ragazzi, ma poi dovete vedere, è uno sport inclusivo, perché ci sono tutte le categorie, ci sono la categoria uomini, la categoria donne rifatte e c'è la categoria nani. Anche nani, sì, è vero. Ragazzi, avevo completamente rimosso le persone si dice persone piccole. I diversamente alti. Le persone piccole, perché i nani sono quelli con la barba e l'ascia, e sono diversi. Esatto, quelli che scavano Mauria. Esatto, e hanno una loro dignità, insomma, quindi teniamoli separati. Comunque, insomma, vi invito su YouTube a cercare gare di schiaffi. E soprattutto, in particolar modo, perché credo che dalle parti della Polonia o giù di lì ci sia proprio un campionato ufficiale con tanto di programmi televisivi, ma... ed è lì che ci sono le donne rifatte, i nani eccetera, ma se proprio vi volete divertire ci sono i campionati un pochino più underground che si tengono in Russia, e lì ragazzi ce n'è da vedere, lì ce n'è, e Marco ci collega un link su diretta. Spero che sia giusto, perché Slapfest è in polacco, quindi penso che sia giusto. Cioè, Kilolu Alblamitz Fena Tokatakitikortoka, sì, sicuramente è questo. Però io non riesco ad aprirlo, cioè non voglio aprirlo, non riesco ad aprirlo fisicamente, non riesco mentalmente ad aprirlo, perché poi penso che starei qui a guardarlo tutta la serata. Insomma, e non è molto... Lo riconoscete facilmente quello quando fanno a schiaffi con gli orsi sui russi, mi sembra abbastanza evidente. Sì, no, però trovato una compilation con YouTube, però insomma... Vi ripeto, personaggi ragazzi, interessanti, assolutamente. Poi dopo magari vi cerchiamo e vi mandiamo, forse l'abbiamo anche già messo nella chat, non ricordo. Ricordate, c'è anche lo Smackfest, che insomma era sempre la versione, sì, forse americana. In particolare il momento in cui appunto il campione russo prende, che fino allora era una sorta di contest dimostrativo, diciamo, che lo potevano affrontare degli amatori che si sentivano di rischiare, così lui è stato magnanimo, è stato quasi papale con tutti, è stato veramente il tocco gentile di chissà che ti può cambiare i connotati, ma non lo farà, fino a quando non arriva questo ragazzetto albino, secco, capello lungo, bianco, proprio ossigenato, strapieno di tatuaggi e con, come diceva Marco, con le sclere degli occhi dipinte di nero, inchiostrate di nero. Lui lo guarda e fa proprio la faccia di quello. E ragazzi, ma gli ammolla un pizzone, ragazzi. Ma un pizzone che... veramente, cioè... gli ha cambiato i disegni dei tatuaggi. Io poi dopo lo cercherò. Sono fatti male pure i vicini di casa. Sì, ragazzi. Ma credo che raramente ho riso così tanto di gusto quando ho visto... Però lui... ha molto barcollato, a schiaffi la gente. Lo hanno non letto è il primo, due... attenzione che vi posto qualche cosa di veramente terribile, dopo lo devo guardare, ragazzi, cioè non ci posso credere che c'è gente tatuata in modo strano che viene presa a schiaffi dal tizio russo, cioè bellissimo, però ho dovuto stoppare. Scusate, potete presentare al tizio russo, come si chiama il tiktoker, quello di Fratelli che aveva i tatuaggi. Ah sì, 27, Wild, 27 della tipo come forma di deterrente. Beh, potrebbe essere un'idea, però oddio, se proprio gli devo, posso dire che se proprio gli dovessi presentare un TikToker oggi, gli presenterei il canale TikTok del nostro benamato Silvio Berlusconi, ragazzi, che Silvio si è fatto l'account TikTok, ragazzi, qualche cosa, quest'estate veramente la campagna elettorale ha raggiunto allora, delle cime di gratitudine assurde. Cioè, visto che noi nasciamo come entità dedita ai podcast, se vi capita, anche se non vi sta simpatico lui, sta gestendo un podcast, Luca Bizzarri l'ha chiamato, ma non hanno un amico, in cui, diciamo così, commenta gli exploit social dei candidati in questi giorni, in particolare quelli che sono sbarcati di recente su TikTok. Fatevi un favore, andatevelo a sentire, ma non tanto per quello che dice lui, per le chicche che ha scopato. Farò, anche se devo dire che negli ultimi mesi, diciamo che è un po' rivalutato, non in positivo, Luca Bizzarri, lo devo dire con un fondo di dispiacere, ma neanche tanto, perché poi alla fine è un sottil paraculo, mettiamola così. Però vabbè, poi ognuno simpatizza o meno con i vari personaggi della sfera dei social, perché al di là del Luca Bizzarri che conosciamo come attore, come ex Cavallo Marcio, come parte del duo con Paolo Cessisoglu, eccetera, c'è anche un Luca Bizzarri molto attivo su Twitter che, diciamo così, non sempre si schiera su pensieri e su idee che condivido, quindi vabbè, così la lasciamo cadere lì. Vabbè, comunque ragazzi, noi la nostra estate, insomma, più o meno la possiamo riassumere così, però l'estate della nazione, l'estate del mondo ci ha portato un sacco di casini, perché la guerra in Ucraina continua, anche se a un certo punto se ne sono disinteressati tutti, più o meno nel momento stesso in cui Draghi si è dimesso da Presidente del Consiglio, in Italia non si è più parlato di guerra, non so se ci avete fatto caso. Semplicemente perché le elezioni, dai. Non c'hai un governo in carica che può prendere decisioni diverse da quelle che ha preso prima che venissero sciolte le Camere. Possono continuare sul solco che hanno tracciato, siamo ordinati amministrazione. No, no, ma non ti parlo di non parlare più di guerra in termini di azione politica italiana, ti parlo proprio a livello di cronaca, sui giornali, da che prendeva tutte le prime pagine. Quando è arrivata la guerra è sparito il Covid, a un certo punto è sparita pure la guerra. Ma è il ciclo delle notizie. È il ciclo delle notizie. Con tutto che il povero Mentana, insomma, si era messo proprio di tigna, no? Poi quando è caduto il governo hanno dovuto rimescolare le carte in tavola, però mi sa che il povero Mentana era in ferie, quindi hanno dato a Celata, a Paolo Celata il compito di fare. Siamo sulla lama Celata, infatti. Esatto, questo sorta di road to, quindi la strada verso le elezioni che poi saranno domenica prossima, che in qualche modo hanno ispirato anche road to OGM di questa sera, ragazzi, perché come avete capito, insomma, non abbiamo ancora preso decisioni definitive su quello che sarà l'OGM che verrà, perché giustamente aspettiamo un attimino da buoni paraculi, cercheremo di farci amico chi verrà, insomma, non è che ci possiamo permettere di andare contro, è vero, lo status quo, contro il potere costituito, quindi cercheremo un attimo di capire come ci dovremo porre la prossima settimana, se dovremo fare i cinegiornali tutte le settimane, li faremo, giusto? Poi, certo. Oppure se il programma lo faremo dal confino in Grecia, che ne sai, può essere. Guarda, è mica male. Cioè, a Corsenno è, perché meglio confino in Grecia che ne so, che in Aspromonte, tutto sommato, no? La rivaluterei questa cosa del confino. Aspromonte è tradizionalmente la patria del turismo involontario per molti italiani. Esatto, esatto. C'è questa famosa azienda, sì, c'è quel di paesaggio che ti rapisce, che si, cioè, chiama, esatto, si chiama tipo un'anima qualcosa. Francesco, buona salve, come andiamo? State a parlare? Noi niente, stavamo facendo le chiacchiere del più e del meno sul fatto che questo fosse non OGM ma Road to OGM, però se vuoi, già che tu prima non c'eri, ti annunzio così. Sì, ma... Ok, che state a parlare? Non lo so, ragazzi, di che stiamo parlando? Di niente, che è la cosa che ci riesce meglio. Che palle. Vabbè, sì, ma noi siamo sempre un po' noiosi, siamo sempre un po' pleonastici, no? Quello che facciamo. Però avevamo iniziato a parlare anche di quello che è il luogo segreto dove si cela il convento del priore, che abbiamo spiegato essere in linea d'aria molto vicino ai luoghi della tragedia delle Marche, del fatto che eravamo stati, tu sei arrivato dopo, però eravamo stati a Cantiano proprio quest'estate, insomma avevamo ricordato queste cose. Invece per te com'è stato il soggiorno dal priore? Sei riuscito ad ottenere il sacramento del priore? Perché io per esempio non ci sono riuscito, lo prendo come un sì, voi che dite? Chi tace acconsente. Sì, no. ha preso il sacramento, gli è tornato su. Ha preso il sacramento, sì. Vabbè ragazzi, era così. Le fugaci apparizioni e le fugaci sparizioni del nostro Francesco, peraltro. No, gli volevo raccontare che avevamo sentito la regina, che stava bene, però ci sembrava un pochino confusa nelle idee. Tra l'altro, poi si è scaricata la batteria. Io non so se è opportuno provare a richiamare lei, se vogliamo, non so se... Forse Francesco aveva pure il numero di Carlo, non so se vogliamo provare a sentire lui per dire guarda che tua madre probabilmente è rimasta chiusa nell'armadio o qualcosa del genere. Ma io Carlo forse non lo chiamerei, cioè come... Ma che sta da eccolo, no niente, dicevamo... solite cose, ti ricordi insomma come avevamo lasciato tutto apparecchiato a giugno, luglio, quando insomma abbiamo fatto... Ah sì, che palle. È uguale, è tutto sempre così, non è mica Runtime by Night che ridete, vi divertite, questo, GM, questa è una... bisogna soffrire in questa trasmissione, si soffre. Beh, oltretutto è un programma impegnato questo, non è che stiamo qui a parlare di cacca, ecco, cioè, dovete fare una ragione. Però potremmo, effettivamente. Potremmo, certo. Sarebbe anche taumaturgico scoprire se nominando la cacca arrivasse per esempio Zio Mischi, vorrebbe dire che è qualcosa di... è un potere mistico che va oltre lo scibile umano, però insomma non credo. Vabbè, ragazzi, Francesco, ma tu sei dei nostri, ci vuoi raccontare qualcosa? Hai qualcosa da raccontare oppure semplicemente sparire così? È sparito, vabbè. È già sparito, vabbè. Allora, ragazzi, c'ho difficoltà di collegamento con l'Emilia Romagna, direi. Attenzione, Brecco? No, niente. Va bene, allora, però a questo punto mettiamo davvero una pausa musicale. Quella di prima era un tentativo mal riuscito. Ci prendiamo questi 4 minuti e mezzo per celebrare la malinconia di settembre. Il brano che ho scelto di farvi ascoltare, però questa volta seriamente, è The Green Day, Wake Me Up When September's Ends. Piti piti piti piti piti piti piti. Ragazzotti, erano i Green Day, Wake Me Up When September Ends, una canzone che in qualche modo ci ricorda che un mese malinconico come settembre ci riporta verso l'autunno. Ecco, siete contenti dell'autunno? Vi interessa l'autunno? Come una Pasqua, che invece è primavera. Però questa... ragazzi, cioè, sotto i 20 oh, gradi. Oh, che Natale è un attimo. Anzi, che cosa fate a Capodanno? Me lo chiedo. Ragazzi, era da maggio che non andavo sotto i 20 gradi qua. Sì, io sono sì. Felicissimo. No, devo dire che l'escursione termica che si comincia a sentire durante la giornata finalmente ci fa capire che almeno per quest'anno ci siamo liberati di un'estate drammatica, ragazzi. Ma al di là delle battute, al di là degli scherzi, al di là dei condizionatori spenti, un grado in meno per aiutare l'Ucraina, il gas, non il gas. Io devo dire, quest'anno non l'ho acceso il condizionatore d'aria, ma è stato quasi un moto dell'anima per cercare di rimparare a tollerare un pochino il caldo. È stato faticosissimo, però posso dire di non aver acceso il condizionatore d'aria in casa nemmeno un giorno in tutta l'estate, un po' in ufficio perché i colleghi ovviamente se no mi uccidevano, raramente in macchina anche perché la mia macchina ormai non ce la fa più, però insomma è stata veramente veramente dura. Per voi com'è stato il caldo di quest'estate? La più calda di sempre secondo voi o no? No, credo. Penso che abbiamo visto di peggio qua. Forse però... più che altro è stata più umida della media, sicuramente, molto più umida della media. Io di fatto, non so se notate, io sto ancora con la voce sotto zero tra raffreddori e problemi alla respirazione che porta l'umidità. Da noi è sparita solo di recente, noi veramente è stato un acquario per 4 mesi quasi. Beh, da noi poi io faccio parlare le zanzare, non parlo neanche io. Marco, tu che invece... vivi in un appartamentino piuttosto, diciamo, fortunato da un punto di vista climatico, che ci dici? Beh, allora, rispetto all'anno scorso è stata più tosta, perché comunque addirittura a metà agosto siamo arrivati a 27 gradi. Che dentro casa, perché cioè, non vorrei che sembrasse la temperatura raggiunta all'esterno, perché ci metterei la dentro firma. Casa, dentro casa, ed è una situazione intollerante, però non ho acceso il condizionatore, non ho acceso. Anche perché non ce l'ho, però vabbè, questo è un particolare. Però, stiamo a badare ai dettagli, insomma. Però non l'ho acceso, quindi cioè, non ho avuto la voglia di accenderlo. Cioè, okay. Quasi lo accendo, no. Cioè, anche se l'avessi avuto, non avrei avuto la necessità. Ho capito. Vabbè, ragazzi, allora, tra l'altro, una cosa importante. Le dirette di Runtime, avete capito che cominciano a tornare. È già la seconda settimana che il nostro Leo Vargheon è tornato operativo, il lunedì, mercoledì e venerdì, con il suo mattino all'ora in podcast dalle 7, compre diretta tranne il mercoledì quando si gioca il Libro Game, quindi immediatamente dalle 7 subito si comincia. Oggi siamo ritornati noi e domani alle 7 riprende il consueto appuntamento del martedì mattina con Buongiorno un cazzo del nostro presidentissimo Simone Pizzi, che quindi vi ricordo domani sarà live. Perciò, se non avete ancora ripreso il mood e i ritmi della stagione invernale, ricordatevi di mettere la sveglia, perché domani, puntuale, alle 7, Simone ci parlerà di qualche argomento sicuramente interessante, sicuramente importante e delicato, da par suo. Quindi, insomma, aspettiamo domani per sapere più nel dettaglio di cosa ci vorrà raccontare, oppure se si ripaleserà in chat, magari glielo chiediamo in tempo reale, cioè lo dirà lui se gli va. Però a proposito di ripalesarsi, se voi siete d'accordo, io un altro tentativo di richiamare la regina lo farei, perché sono rimasto un pochino preoccupato. Vediamo un attimo, faccio il numero, che poi devo stare anche attento a non rivelare il numero della regina. Squilla, forse l'ha ricaricata. Allora vai. Poi è anche un po' dura d'orecchi la cara regina carampana, però. Direi che ci arrendiamo. Ci dispiace, ragazzi. È strano però, perché adesso squilla, quindi avrà trovato la presa di corrente, avrà rimesso in carica il telefono, ma probabilmente o si è tolta l'apparecchio. Va bene, Simone Pizzi dice a me in chat, in diretta Runtime Radio, no, Simone, dicevamo, se ci volevi spoilerare di cosa ci parlerai domani a Buongiorno un cazzo dalle 7, se no, insomma, lo scopriamo domani mattina, tutto lì. Non stavamo chiamando te, stavamo chiamando la regina, che però, no. Del resto a una certa età si va anche a dormire, no? E sono le 22, la capirei pure, mettiamola così. Beh, sono state un paio di settimane dure, Vero? È stata molto in giro, insomma. Sì, secondo me sì, è vero. Secondo me non si deve essere fermata un attimo nelle ultime due settimane. So che facevo una specie di interrail, un viaggio un po' particolare. Non è che sono sceso nei dettagli, perché poi quella, quando ti spiega le cose, con questo suo accento un po', come dire, strano, insomma, allora non sempre sì. Britannicano, sì. Io direi. Britannicano, sì, qualcosa del genere. Non è che... Oh, e giustamente Simone ci ricorda che la puntata di Buongiorno un cazzo, lui ha già fatto effettivamente un panel, quindi un teaser grafico. Il titolo della puntata che ascolteremo domani è Scimmiette domestiche, messia de denaro e un po' di TikTok. Ce lo vedete Simone a farsi l'account su TikTok come il nostro Silvio? Why not? Perché no? Comunque, insomma, ragazzi, che dire, io sono curioso di ascoltare di cosa ci parlerà Simone domani, però per farlo e per essere sicuro di puntare bene, di sintonizzare bene la Runtime Radio domani mattina alle 7, oggi non farei tardissimo. Però prima di accomiatare, perché voglio dire, abbiamo ancora un pochino di tempo, e visto che noi siamo soliti parlare di quell'argomento lì, che nel tempo si è splittato in tanti argomenti lì, approfittiamo per agganciarci al fatto che è arrivato Paramount Plus in Italia e alcuni di noi stanno fruendo della prova gratuita di 7 giorni. E sondando un po' il terreno, ho come l'impressione che non al settimo, ma già al sesto, chiuderemo un po' tutto il rubinetto, o sbaglio? Non lo so, perché in realtà, cioè, ho scoperto che c'è un'area cartoon che piace ai miei figli. Quindi... Azzarola. Vabbè, ho capito, però qua questi figli, ragazzi, c'hanno un overpower questi figli che non va mica bene. Ecco, penso però, dai, hanno caricato, tipo, in una settimana c'era tutto Strange New Worlds, doppiato, qualche serie interessante, c'è la serie TV tratta da... il romanzo L'uomo che cadde sulla terra, che ho trovato apprezzabile, c'è tutto South Park, compresi i film. Però scusa, io lo sto brosando in diretta insieme a voi, perché stamattina ho attivato il periodo di prova, ma poi non ho avuto tempo. Io vedo che ci sono 3 episodi di Strange New World, quindi ce ne sono 10 che io sappia, dovrebbero uscire tutti. No, sto guardando adesso, c'è Strani Nuovi Mondi, Figli della Cometa e Fantasmi di Illyria, che sono stati tradotti così in italiano. E il non so dove ho letto che entro questa settimana sarebbero stati pubblicati tutti e 10. Boh, per carità, magari sì, però sarebbe un modo un po' particolare di farlo. No, credo che siano, probabilmente li caricheranno gli altri 7 dopo la prima settimana, così. se ti sei iscritto per quello. No, anche perché periodo di prova non c'è di tutto. Notavo che hanno scelto questa linea, questo approccio un po' particolare per quanto riguarda le promo, perché sapete, o se non lo sapete ve lo dico io, per i primi 10 giorni di lancio ci si può abbonare a prezzo di, diciamo, scontato, anziché 7,99 euro al mese, per il primo anno ci si può abbonare a 4,99 euro al mese, interrompendo l'abbonamento quando si vuole. Che è una cosa simile a quella che aveva fatto anche Disney Plus il primo anno, la tariffa più o meno la stessa, però Disney Plus, per farti la tariffa scontata, ti chiedeva anche di prendere il pacchetto annuale tutto in una volta. Invece Disney Plus, invece Paramount Plus, che fantasia di nomi, tra l'altro, ha fatto il ragionamento inverso. Se attivi la sottoscrizione mensile con rinnovo automatico, che puoi disdire quando vuoi, hai diritto alla promo a 4,99. Se invece compri direttamente tutto l'anno, anche se c'è il periodo finestra, lo paghi pieno. Quindi un po' strana questa cosa, però secondo me ci sta anche, perché secondo me molti di quelli che si abboneranno anche per il primo mese, perché magari si dimenticheranno di disattivare il rinnovo automatico, dopo un mese staranno più attenti, perché guardavo le serie e devo dire, ragazzi, che insomma, di novità, di cose che si possono definire novità per cui pagare un ulteriore canone mensile dopo quelli che uno magari già paga a Netflix, a Prime Video, magari anche a Disney Plus o ad altri, che se non altro perché sono arrivati molto prima, quando ti vai a capare questo catalogo che poi magari fino a ieri era su Sky, era su Netflix, era frammentato qua e là, non trovi niente di veramente interessante. Io l'ho detto nella nostra chat tecnica ieri, mi sembra, una delle pochissime cose a cui ero interessato è il film finale di Ray Donovan, che chiude l'arco narrativo delle stagioni che invece si trovano su Netflix, anche su Netflix perlomeno, perché Netflix aveva l'accordo con Showtime, che non so se a questo punto verrà meno o altro, però insomma ero curioso di vedere come finisce Ray Donovan, che è una serie che non mi era dispiaciuta. Ovviamente non è che possiamo dire che noi Strange New World l'abbiamo già visto, perché non possiamo averlo già visto, ma è come ci se l'avessimo già visto. Ci hanno mandato le VHS. Ci hanno mandato le VHS, esatto, gli amici del Nebraska proprio, sì, quindi diciamo in qualche modo le cose per cui questa piattaforma sono appetibili oggi sono veramente, veramente poche. Poi so che hanno puntato anche su alcune produzioni italiane. No? Allora guarda Marco, ma adesso sì che m'hai convinto. Io mi tengo il periodo di prova per quello. No, ma fai bene, perché insomma, quando te capita. E dice Peppe Rizzard, dice: qui lo dico e qui lo annego, se Netflix avesse un piano annuale sul modello di Disney e Amazon, oggi non starebbe con le pezze al culo. Vabbè, sono 3 modelli completamente diversi, però è difficile paragonarli, perché Disney sicuramente alzerà i prezzi e lo sta facendo anno dopo anno. All'inizio ha dovuto agganciare utenti assecchiate. Intanto salutiamo la nostra Melanie che ci raggiunge. Buonasera, buonasera a te. E però insomma poi adesso Disney sta un anno dopo l'altro allineandosi a dei prezzi più alti. L'unica differenza è quella che a tutt'oggi fa Prime Video, che ti viene fornito come servizio gratuito accessorio alle spedizioni, e quindi il prezzo dell'abbonamento annuale è quello che varia da nazione a nazione per avere il servizio Prime principale, quindi veramente un discorso un po' diverso. Però su Netflix, che sicuramente sta andando male perché ha alzato troppo i prezzi e ha abbassato troppo la qualità media di quello che offre, lo abbiamo detto mille volte. Però guardando, dice Peppe, ci sta dentro pure Prime Music. No, c'è solo Prime Music base, Prime Music completo, che non so come si chiama, ha un canone aggiuntivo. Plus, pure quello. Esattamente come Audible, che non è incluso. Però tornando a Paramount Plus, che è la novità di oggi o la novità di questi giorni, ragazzi, veramente più scorro il catalogo più mi domando perché uno dovrebbe pagare per queste, perché non è che siano cose brutte, non è che sto dicendo, voglio dire, non è che c'è In The Market nel catalogo, peraltro non c'è nemmeno, non c'è neanche The Precursor, come si chiamava? Sì, l'ho cercato appena mi sono iscritto. No, ragazzi, niente. Creators, comunque non c'è, no, nemmeno The Lady. Creators, sì. Quindi vabbè, non siamo a quel livello, però comunque non ci sono titoli belli che non abbiamo visto 100 volte ciascuno. È quello il problema, che i titoli ci sarebbero pure, solo che vi sfido a non aver visto mille volte i 4 Indiana Jones, L'aereo più pazzo del mondo, che altro c'è, non lo so, vediamo, e sto scorrendo in Il Padrino, la saga del Padrino, tutte cose che però, voglio dire, le sappiamo mediamente a memoria. Come diceva Simone l'altro giorno, se filtri per categorie, vai per esempio a fantascienza, che è un genere a noi caro, ci sono quattro cose in croce, vediamo, ci sono alcuni film di Star Trek, non tutti, e poi c'è Intelligenza Artificiale, Punto di Non Ritorno, Fuga da Los Angeles, ma insomma veramente quattro cose. Ci chiede il nostro Peppe se c'è anche Frankenstein Junior, ma Frankenstein Junior non è Paramount, Frankenstein Junior era Fox, quindi eventualmente dovrebbe essere nel catalogo Disney Plus, credo, che posso anche andarlo a controllare, vediamo. Ve lo dico io che ce l'ho aperto. Suspense. Allora, su Paramount sicuramente no, aspetta, faccio una cerca, vediamo Disney che ci dice, cerca, no, c'è solo Frankenweenie su... Su Amazon Frankenstein Junior, non mi sbaglio. Ma non so se è aggiuntivo, tipo... Aspetta, Stiamo Entro cercando tutti, perché proprio siamo andati in... No, non c'è, Paramount, non c'è neanche, no, su c'è. Prime Video. Mi dispiace dover smentire Marco. Vediamo anche Netflix, ce li stiamo battendo tutti. Proprio, No, ma Marco c'ha ragione, perché l'hanno pubblicizzato, ma era tipo lo pagavi a parte. Stava a volte tra i suggeriti. E neanche su Netflix. No, è probabilmente... No, non è disponibile nella nostra regione, tutto qua. Vabbè, che c'entra tutto qua, a noi della nostra regione ci interessa. No, però evidentemente in questo momento non è nel catalogo di nessuno in Italia. Comunque, vabbè, io personalmente ho la mia scorta personale di varie versioni di Frankenstein Junior, quindi non è un problema. DVD, Blu-ray, probabilmente anche VHS, adesso non me lo ricordo, ma mi pare di sì, perciò... Vabbè, però giustamente è un motivo per disdire tutto, come dice Peppe. No, non lo puoi dire, perché dalla prossima settimana tu sai che faremo una sorta di riposizionamento strategico di OGM che insomma, aspirerà, come dire, a... ai dettami della dottrina, quindi insomma ci comporteremo come si conviene, faremo anche il cinegiornale. C'è tutto un mercato da conquistare, diciamo così. Esatto. E poi dovremmo un po', come dire, mettere sotto sopra il palinsesto, diciamo così, la scaletta, però sono convinto che ce la faremo. E vabbè ragazzi, vabbè. Comunque, insomma, se poi invece qualcuno di voi pensa di mantenere attivo Paramount Plus, ce la potrò fare su questi Plus, ma hanno anche un po' rotto le scatole, fatecelo sapere, diteci cosa guarderete. Intanto Luca S. dice che un titolo, un nuovo acronimo per OGM potrebbe essere Oltranzisti Gioiosamente Meloniani. E dobbiamo decidere quello che sarà l'acronimo della stagione 5, perché ragazzi è incredibile, siamo arrivati alla stagione 5 di OGM. Però sicuramente la tradizione vuole che non ripetiamo nulla del titolo precedente, quindi gioiosamente l'abbiamo già usato e non si può fare. Vabbè ragazzi, voi che altro volete aggiungere? Perché io voglio raggiungere il letto, non so voi, quindi siamo in due, anche noi. Ok, no, beh. Niente, abbiamo visto quel bellissimo capolavoro di come si chiama, ho anche dimenticato, Resident Evil, su Netflix, prime due puntate, abbiamo deciso che è diventata la nostra serie di culto, cool-to, scritto così per noi, e poi abbiamo visto le prime due puntate, mi sembra, di Cyberpunk iniziato a vedere la prima, Edge Runners. Ma ragazzi, tra l'altro in queste settimane sono usciti anche, diciamo, i pezzi da 90, perché è uscito su Sky, quindi per noi, quindi in realtà su HBO, il prequel di Game of Thrones. Sì, quello con Doctor Who. Quello con il Doctor Who, mettiamola così. Che adesso mi sfugge il titolo, il momento Blackout, di House of Dragons. Di House of Dragons, grazie. E poi ovviamente... scontro fra titani, perché è iniziata la pubblicazione anche su Prime Video degli Anelli del Potere, quindi insomma il fantasy all'ennesima potenza, sono due serie enormi. Poi c'è chi il fantasy un po' la, come dire, chi si è un po' stufato del fantasy, chi ama vederlo, quindi insomma, però in qualche modo è il momento proprio dell'apice. No, probabilmente nelle prossime puntate, nell'angolino dedicato all'intrattenimento, ne parleremo. Io personalmente devo essere sincero, ho visto il primo episodio di entrambe, poi ho avuto varie cose da fare, quindi le ho messe in stand-by entrambe. Le recupererò sicuramente. Però insomma, entrambe da un punto di vista tecnico produzioni notevoli, in particolar modo la qualità della fotografia, delle ambientazioni, delle ricostruzioni della serie sugli Anelli del Potere è quasi a livello della trilogia cinematografica. Hanno usato anche le stesse location, probabilmente Nuova Zelanda. Hanno usato anche lo stesso responsabile di buona parte degli effetti speciali, che ha detto che in realtà su scala Amazon risparmia, perché lo stesso effetto può usarlo per 5 stagioni, quando invece molti che ha realizzato sono stati usati solo per un film. Quindi ho fatto un discorso interessante, poi magari lo linko. Vabbè, interessante, sì. Però certo, se poi cominciano ad essere ripetitivi, come si faceva con i cartoni animati della Filmation, esatto, mamma mia che tristezza. Intanto salutiamo e buonanottiamo il nostro Simone Pizzi, che va a riposare, domani mattina ripeto sarà al microfono dalle 7. Dice Peppe Rizzard, Anelli del Potere dal 26 settembre verrà annullato perché ci sono troppi elfi oscuri, non oscuri, scuri, che è ben diverso da oscuri, perché oscuro ha un significato diverso da scuro nel fantasy, anche se alle volte poi si sovrappongono. Poi dice troppi nani abbronzati, troppi hobbit migranti. Sì, sì, proprio è una serie da chiudere, assolutamente sì. Vabbè, poi insomma faremo ironia, avremo settimane e settimane per fare ironia su tutto quello che sta succedendo. Per riderci su. Cerchiamo, rideremo su tante cose, compresa la fata turchina afro, però vabbè, insomma, ci sarà tempo. Detto questo, ragazzi, io non so se ci vogliamo appropinquare a dare il comiato. Tipo a letto. Allora io direi che a questo punto. Mettetevi nelle orecchie questo sax, perché non so se ne avremo ancora nelle prossime settimane, tutto è da vedere. Approfitto però per dare la buonanotte e per ringraziare intanto tutti quelli che ci hanno fatto compagnia questa sera in live nell'arco della serata. Saluto gli ultimi arrivati, per esempio la nostra Melanie che ci dà la buonanotte, mi auguro tu possa recuperare in podcast. Saluto poi il nostro Simone Pizzi che è già a letto a dormire, e approfittiamo anche per la nostra Michela De Paola. Salutiamo Peppe Rizzard, salutiamo Luca S, salutiamo il nostro Francesco Lobby Frontali di Muro, che ci ha dato un po' una mano, una presenza a tratti, ma che ringraziamo. E saluto i sodali di questa stagione che ricomincia, e dovrebbe ricominciare poi in maniera un po' più canonica nelle prossime settimane. Dovrebbe esserci anche Francesco, ci sarà se vorrà, quando vorrà, anche il nostro Simone Pizzi. Ma questa sera saluto il nostro eredinissimo Marco Gualdi. Vi saluto, forse per l'ultima volta in versione non cameratista, però. Bravo, vai a preparare il cinegiornale. Saluto il nostro putignanissimo Carmine Puccio Console, che non saluto, cioè lui non saluta. Mi sentite? Okay. Adesso sì. No, scusate, ero muto. Vai. Scusate, buonanotte a tutti ragazzi, baci. Ragazzi, e vi saluto anch'io, vi do appuntamento intanto a quello che verrà dopo le elezioni con l'OGM più o meno canonico, ci lavoreremo in questi giorni. Vi rimando alle prossime settimane per il ritorno anche delle orazioni della sera, e vi ricordo domani a partire dalle 7 puntuali con Buongiorno un cazzo il nostro Simone Pizzi. Ciao. Ciao.